Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Bentrovati su Blu Radio Veneto, l'appuntamento insieme all'Adico. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Oggi giornata particolare perché ormai cominciamo il quinto anno di collaborazione insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, e come sempre capita, al telefono con noi c'è il presidente Carlo Garofolini. Bentrovato Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di un argomento particolare, perché la Cassazione, e dopo ci spiegherai bene in che termini, ha detto che non si può essere obbligati a lavorare nei giorni festivi. E mi sembra che questa cosa potrebbe cambiare anche un po' le carte in tavola con questi negozi, questi centri commerciali che ormai sono aperti a tutti i giorni dell'anno, non dico 24 ore su 24, ma poco ci manca. Ah certo Francesco, poi guarda, giusto per introdurre quello che è un pensiero mio, ma anche una posizione che posso dire l'Adico ha sempre avuto in questi argomenti: noi siamo contrari ai centri commerciali aperti di domenica e siamo contrari alle aperte domenicali. È vero che è bello vedere un centro storico, è bello vedere i negozi aperti, però dobbiamo anche metterci noi nelle idee che, come per chi è bello andare a passeggiare la domenica e vedere i negozi e poter entrare nei negozi, è anche giusto che chi insomma ci lavora possa goderne allo stesso modo. Premesso questo, parliamo appunto di un'importante sentenza della Cassazione, di una vicenda che è cominciata proprio nel 2008, dove fu sostanzialmente andata a ribadire un concetto importante: nessuno può essere obbligato a lavorare nei giorni festivi. Chiaramente dobbiamo parlare di una sentenza che a suo modo può essere definita anche storica, ma che dopo andiamo a commentare, magari li distingui comunque, perché poi vediamo che chi fa un lavoro scatunato in realtà può non fare su questo principio, ma sostanzialmente abbraccia quelli che sono i casi più comuni, come proprio i negozi e le commesse e chi che magari è costretto a venire a lavorare in questi giorni. Ecco, questa cosa qui la Cassazione l'ha ribadito: per esigenze di servizio o su richiesta del datore di lavoro non si può pretendere che il dipendente venga a lavorare nei giorni di festività, quindi potrebbe essere Natale, Epifania o cose di questo genere, no? Mi viene da pensare, ma al rifiuto del dipendente qual è la possibile conseguenza? Allora, innanzitutto oggi troppe volte anche noi come Adico riceviamo la segnalazione di persone che ci richiedono un po' quali sono i loro diritti nei confronti dei propri datori di lavoro, che impongono l'obbligo di andare a lavorare le festività, e i centri commerciali ne sono un po' anche l'esempio. Allora, normalmente la vicenda ha riguardato una commessa che proprio in occasione di una festività per conto di una famosa casa di abbigliamento aveva imposto alla dipendente a presentarsi nei posti di lavoro per eseguire la sua prestazione. La dipendente non si è presentata, sostenendo che non era dovuto da parte sua farlo, e qua è nata tutto l'iter giudiziario, che alla fine l'epilogo l'ha avuto con la Corte d'Appello di Torino, che ha ritenuto, che sono, ricordiamo a tutti, i giudici supremi, che hanno ritenuto appunto illegittimo lavorare in queste condizioni in cui il datore di lavoro aveva deciso unilateralmente di imporre questa necessità o volontà di andare a lavorare un giorno festivo. Ricordiamo che, come hai detto tu, il distinguo viene fatto per chi fa un determinato tipo di lavoro, soprattutto di pubblici o anche privati, ma di cui si conduce alle istituzioni, ma di cui, e questo voglio essere chiaro con gli ascoltatori, quando si parla di esigenze di servizio deve essere considerato un tipo di lavoro, come può essere per esempio un ospedale, come può essere chi lavora nelle forze dell'ordine, dove l'evento deve assumere comunque un carattere di eccezionalità e di straordinarietà. organizzare preventivamente queste cose non significa rientrare nelle esigenze di servizio, e soprattutto non possiamo pensare che chi ha un negozio di abbigliamento rientra, si possa equiparare a un'azienda, a un'istituzione pubblica di questo tipo o privata se svolge una mansione di questo genere. Vabbè, e quindi adesso vedremo se cambierà qualcosa, perché più volte era capitato di centri commerciali che avevano detto teniamo aperto il giorno, che ne so, di Santo Stefano, con ovviamente la rabbia di tutti i lavoratori che se ne sarebbero restati tranquillamente a casa. Vedremo cosa succederà in questo prossimo, in queste prossime festività natalizie a questo punto. Sì, di tutti i lavoratori, soprattutto anche delle mamme che insomma aspettano la domenica per godersi un po' i propri figli, perché magari durante la settimana vanno a scuola, e perché comunque riteniamo giusto che insomma almeno la domenica deve essere salvaguardata come le festività, e secondo me oggi bisogna anche, e qua mi aggancio anche a appelli che aveva fatto anche Papa Francesco in passato, insomma valorizzare la domenica, la famiglia, ma anche cominciare a dare ordine e senso a quello che sono insomma una serie di orientamenti che appunto sempre più vedono imprenditori o aziende comportarsi anche in questo modo nei confronti dei loro collaboratori, che decidono unilateralmente cosa devono fare senza neanche più avere insomma la decenza di concertare le cose. L'ADICO risponde e aiuta anche in queste domande, quindi ai lavoratori che avessero occasione insomma di trovarsi in queste condizioni possono chiedere aiuto all'ADICO. associazionedifesaconsumatori.it è il sito. Ringrazio il presidente Carlo Garofolini per essere stato con noi. Grazie a te Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.